Sono le sette, sto passeggiando nervosamente alla periferia di una città. Mormora il traffico, molto lontano, accompagnato dai miei pensieri sulla realtà. La vita con la sua cadenza cammina ad un passo diverso dal mio. Mi sforzo a seguire quel ritmo e se mai lo afferro arriva l'oblio. Con dei mattoni evasivi di gran consistenza mi costruirei la casa dove abitare con questi momenti di assidua impazienza, ridendo della mia emotività. Questa è una gara fra automobili dove non c'è traguardo. Felicità. Pensieri modesti, se del tutto onesti, poi si vedrà. Man mano che il grande vortice chiamato tempo mi porta più in là, dove occhi ingenui vedranno altri cieli coperti con delle nubi di varie forme, che sono prove future di vita dagli esiti incerti e seguono chiunque li scanserà. Quanti adulti vogliono avere ancora i primi impulsi di una giovine? Di problema più non c'è. Una vita, un esame sarà, che se non immediato presto tardi verrà, e la prova di maggior spicco da affrontare è un grande amore per la vita che c'è in te.